Per alcuni giorni saremo alla scuola della parola di Dio con il libro di Coelet. E se ogni parola di Dio andrebbe meditata da noi e non solo ascoltata dal sacerdote che la spiega, perché quando anche fosse interessante, però è come uno scroscio d'acqua sul sasso, va via. Se noi meditiamo invece è come un terreno che si apre ad accogliere l'acqua che faccia germogliare. E se ogni parola dovrebbe essere meditata ancora di più, Coelet, perché è così controcorrente al nostro modo di pensare che non ci basta sentirlo, dobbiamo interiorizzarlo. Una generazione se ne va e un'altra arriva. Lo sappiamo questo, vediamo i nipotini crescere, vediamo le nonne invecchiare e oltre una certa età non andare, eppure che sapienza ne ricaviamo da questo. Il sole sorge, il sole tramonta, ma come appena è iniziata la settimana è già finita. È appena passato Natale, andiamo già alla Quaresima. Tutti i fiumi scorrono verso il mare e il mare non è mai pieno. Nessun ricordo resta delle generazioni passate. Ma sai, è morto quel prete, c'era la chiesa che scoppiava di persone. Vuol dire che ha saputo parlare al cuore dei suoi fedeli. Quanti mesi sono passati? 4 mesi. Cosa resta di lui? Niente. Se non quello che c'è davanti a Dio. Amici, abbiamo bisogno queste cose di interiorizzarle noi. Io l'ho fatto oggi, mentre mi preparavo la Santa Messa, e ho trovato che questa parola, vanità delle vanità, tutto è vanità, posso tradurla con un'altra parola a me più utile. Tutto passa. Mi sono soffermato a riflettere su questa parola, tutto passa. E allora perché conservare a lungo dei risentimenti nel cuore? Tutto passa. Tutto passa, perché avere ancora la smania? Ma com'è bella quel mobile lì, sarebbe bene in casa mia, starebbe bene. Perché ancora la voglia di accumulare? Tutto passa, perché non riesco a buttar via niente dei vestiti che ho negli armadi? Tutto passa, perché non decidersi di andare a messa tutti i giorni? Non ho tempo. Tutto passa, perché non guardare se ne quei pochi soldi che ho in banca non ci sta però anche una piccola cifra per coloro che hanno più bisogno di me. Tutto passa. Tutto passa. Mi rendo conto che mi aspetta il paradiso. Quest'ultimo mese, quanto tempo, quante volte mi sono soffermata a pensare al paradiso, a immaginarmelo, a fantasticare e a pensare come sarà. Tutto passa, Dio solo resta, e resta il bene che io ho fatto, migliorando il mio carattere per porgere al mondo una persona migliore. invece di voler migliorare il carattere degli altri. Tutto passa, tranne l'amore che ho riversato sulle persone che conosco, che mi stanno vicine, facendo io magari un primo passo. Tutto passa, tranne le preghiere che ho fatto per gli sconosciuti. Il mondo è così grande che mette paura a pensarci, ai 7 miliardi di persone, eppure sono tutti figli di Dio. Tutto passa, tranne il bene che ho fatto e tranne che Dio, che resta per sempre.